Va bene, allora, visto che mi hanno messo in questo posto, e scusandomi con i compagni presenti, anche per l'assenza di alcuni compagni, perché forse abbiamo scelto un po' male, perché già alla vigilia di Pasqua, cioè non alla vigilia, ma insomma quasi alla vigilia di Pasqua, qualche compagno già è partito per un po', soprattutto pensionati, ma non solo, è partito per le vacanze, anche perché per esempio gli stessi insegnanti sono in ferie da domani, il che per me dava da oggi appunto, quindi qualcuno che, siccome ancora malgrado tutto non siamo alla fame per tutti, qualcheduno che ha la casetta fuori o è andato già in vacanza. Questo è un peccato, perché il testo che adesso la professoressa, ma soprattutto compagna, compagna Elena Felicetti presenterà, è un testo molto bello a mio giudizio, ma probabilmente va bene, è molto bello perché sei del PCL, no, non è solo per quello, perché facciamo cose belle, facciamo cose così così e qualche volta anche cose normalmente non brutte come contenuto politico, ma insomma magari scritte in modo non perfetto. Questo invece è un testo molto, molto fatto molto bene, che tocca un punto poco studiato, figurarsi in Italia, ma in generale, ma in Italia in particolare, cioè praticamente la questione del ruolo delle donne bolscevicche e della loro battaglia attraverso questa struttura che si chiama, questo nome, Zenotiel, sì. Cioè una struttura proprio creata per sviluppare la battaglia per la liberazione della donna subito dopo la rivoluzione. E io credo che purtroppo, soprattutto in Italia, dove per motivi che adesso non è questo l'argomento del giorno, però dal 1968 il substrato teorico trotskista, che per esempio esisteva negli anni 60 nella sinistra engraiana, almeno a livello intellettuale, riviste come La Sinistra, Giovane Critica di quel matto che adesso è alle TV di Berlusconi, ma che insomma allora faceva da giovanissimo insieme a altri, quel substrato antistalinista e trotskisteggiante, al di là dell'essere non trotskista veramente come posizione politica, si è perso, e con il 1968 si è sviluppato un substrato di tipo stalinoide. Noi lo vediamo oggi, credo, sulla questione dell'Ucraina anche, ma su tanti campi, e su questo, sulla questione anche femminile, in cui per reazione si è andati, non dico all'estremo opposto, perché non sono due estremi, sono due posizioni sbagliate, alla riscoperta del femminismo borghese o del femminismo piccolo borghese, magari aggiornato, ma insomma tra la negazione dell'importanza della specificità della questione femminile e invece la riproposizione del femminismo piccolo borghese e borghese. Invece c'è una grande tradizione marxista femminista, ricordiamo tra l'altro che pochi sanno che l'8 marzo, come ebbe a dirmi in un dibattito in una televisione un fascista, dice: io sono contro l'8 marzo perché è una festa comunista, e devo dire che persino le concorrenti dicono invece aveva ragione il fascista, che era fascista ma colto e sapeva che l'8 marzo è una festa comunista, perché l'8 marzo fu proclamato dall'Internazionale Comunista come giornata di lotta, con la precedenza delle donne socialiste dirette dalla particolare Clara Zetkin, quindi dalle posizioni rivoluzionarie delle donne, ma che il primo 8 marzo fu festeggiato dal Partito Comunista d'Italia l'8 marzo del 22, quindi In un'occasione ho scritto 23 perché me l'ho sbagliato, credevo, eh? Invece 8 marzo 22 in un teatro qui di Milano con Bordiga alla presidenza, Ravera, le compagne della commissione femminile del Partito Comunista d'Italia. Fu il primo 8 marzo festeggiato come 8 marzo in Italia. E quindi nella rivoluzione bolscevica c'è la centralità della questione femminile. Poi adesso non voglio rubare tempo e spazio alla professoressa Felicetti, ci fu un'attenzione alla questione della liberazione della donna. Che cosa con la situazione di miseria in cui si trovava a causa della guerra civile, l'Unione Sovietica. Ma come questo è il primo terreno, ma altri terreni come la questione dell'infanzia e dell'educazione dell'infanzia, salvaguardia dell'infanzia dispersa nei quartieri, orfani, eccetera, eccetera, gruppi semi banditeschi che però appunto venivano recuperati. Oppure come la questione ambientale, nonostante la situazione drammatica, Lenin e i bolscevichi e le loro dirigenti bolscevichi, Kollontaj, Krupskaja e a vari livelli altre meno conosciute, la Bosch, eccetera, eccetera, diedero un'importanza fondamentale già nei primi anni di difficoltà alla lotta per la liberazione della donna dalla schiavitù domestica. Molte volte si è sentito dire, e qui concludo e lascio la parola alla compagna, non c'è liberazione della donna senza rivoluzione socialista. Questo è vero, ma è anche vero il contrario, che non c'è una vera rivoluzione socialista senza liberazione della donna. E questa non è una strana novità di oggi. August Bebel, che era il dirigente principale della socialdemocrazia tedesca e in un certo senso internazionale, che era un militante operaio, un fabbro, non era un intellettuale, eccetera, certamente diventato un grande teorico, scrisse tutto un testo di Socialismo e la donna, in cui diceva: la donna sta al maschio come l'operaio sta al padrone. E quindi poneva già la questione della liberazione della donna come una questione centrale della prospettiva rivoluzionaria. Questo purtroppo è dimenticato, si pensa che l'8 marzo e le altre cose siano feste nate, che ne so, dal movimento femminista degli anni 60. Lo stalinismo, appunto, ha buttato giù tutte le conquiste, poi lo dirà, quasi non tutte, ma quasi tutte le conquiste, in particolare il stalinismo d'Italia. Khrushchev ha restaurato qualcosa, ma poco. Si pensi al divorzio, all'aborto, che era proibito sotto Stalin, da essere il primo paese che riconobbe diritto all'aborto, la Russia, e poi ristabilito sotto Khrushchev. Abolì queste cose. Lo stalinismo ebbe una concezione femminista per cui, per esempio, nell'immediato dopoguerra il Partito Comunista si dichiarò nettamente contro l'ipotesi di porre anche in Italia il diritto al divorzio, perché noi difendiamo la famiglia tradizionale come nucleo della società democratico-popolare e via dicendo. Le compagne della nostra commissione di partito hanno fatto un lavoro ottimo e adesso lascio per la presentazione vera e propria la parola alla professoressa Grazie compagno Franco. Sì, in effetti questo professore si mette un po' in imbarazzo, anzi grazie per però questa potrei essere. importanza, però vabbè. Allora, mi riattacco subito alla produzione teorica del femminismo marxista, che a me piace parlare, però mi piace di più parlare di femminismo rivoluzionario, perché marxista è già un termine troppo generico e spesso oggi anche alcune, diciamo, teoriche che si inseriscono in questo filone di pensiero, in realtà non, secondo noi non hanno un programma o comunque delle proposte politiche che in realtà abbracciano un'analisi che possa invece combinarsi con la nostra. Ecco, pensiamo a tutte quelle che rivendicano il salario domestico, ad esempio, che va completamente in direzione opposta a quello che invece è il lavoro di socializzazione e di cura, che fu tra l'altro uno dei tasselli più importanti della rivoluzione nella rivoluzione, cioè la rivoluzione delle donne dopo la rivoluzione come presa del potere da parte dei bolscevichi. Il lavoro teorico è sempre stato importantissimo, i primi teorici non sono donne, ricordiamo che il primo inquadramento molto generico lo diede Marx nel Capitale e fu soprattutto Engels a inquadrare la questione della donna, in particolare da un punto di vista materiale e soprattutto a descrivere e indagare in maniera molto approfondita la questione della riproduzione, non solo biologica ma soprattutto sociale, che è necessaria di fatto al mantenimento di quella forza lavoro che poi è, diciamo, la merce privilegiata da parte del capitalista da cui estrarre plus valore. Da qui, insomma, le compagne iniziano appunto a prendere coscienza che è necessario che le donne si occupino di loro stesse. Una delle protagoniste in questo senso è stata proprio Clara Zetkin, come diceva anche Franco, che fece un lavoro ineccepibile, soprattutto tra le donne lavoratrici, e ingaggiò una battaglia molto dura contro il femminismo borghese, tant'è che il termine femminismo all'epoca non era usato dalle donne comuniste, perché era solo quello borghese. Ovviamente oggi non è più così, quando si parla di femminismo si parla di tante correnti e si parla soprattutto di un'esperienza storica come quella del 68, che ha visto comunque la nascita anche di un femminismo, sì piccolo borghese, ma quantomeno su alcune tematiche radicale. E tutto sommato appunto quello che oggi possiamo definire un femminismo marxista rivoluzionario, per quanto molto debole in quel periodo, è riuscito, diciamo, a sopravvivere proprio nelle avanguardie, diciamo, soprattutto trotskiste. Le prime donne che iniziarono quindi a prendere parola sulla loro condizione furono proprio Krupskaya e la Kollontai. Iniziarono a scrivere dei pamphlet. Nel 1899 appunto la Krupskaya, sotto lo pseudonimo di Savlina, pubblica La donna lavoratrice. E nel 1909 Alexandra Kollontai, all'epoca ancora menscevica, scrisse Le basi sociali della questione femminile. Ed è proprio questa seconda pubblicazione che si riallaccia a tutta l'analisi di Engels sul ruolo della riproduzione sociale, ed è sempre stato un po' anche il punto centrale dei pensieri della Kollontai, no? Il come poter liberare la donna da questo doppio lavoro, da questo doppio oppressione e doppio sfruttamento, no? Per poter mettere la donna nelle condizioni di partecipare alla vita politica e quindi raggiungere quella uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale. Quindi il lavoro teorico è alla base delle comuniste rivoluzionarie, un lavoro teorico che peraltro vede una maturazione stessa all'interno di questi partiti. All'inizio si pensava che la questione femminile potesse essere inglobata e risolta con la lotta di classe, punto. La lotta di classe è già lotta femminista, una visione alquanto riduzionista, peraltro oggi portata avanti proprio dai settori stalinisti, e che invece ovviamente pian piano le donne bolscevichi hanno capito che doveva essere, non rigettata, ma corretta sicuramente, nel senso che proprio perché le donne sono metà della classe lavoratrice, quindi metà del proletariato, è indispensabile che la loro lotta rientri nella lotta di classe. Ma è necessario anche dare una specificità a questa lotta, perché appunto la maggior parte delle donne è proprio, vive questa condizione specifica che è anche una condizione di oppressione all'interno della famiglia, che è appunto un luogo di riproduzione sociale, quindi cellula di base fondamentalmente del capitalismo, nel ruolo che ha di mantenimento della forza lavoro. Preso atto di questa consapevolezza, le donne bolscevichi continuano, diciamo, il loro lavoro di propaganda e di agitazione anche e soprattutto sui luoghi di lavoro, Si danno un giornale, la Rabotnysa, l'operaia, che nel 1914 durerà pochissimo perché verrà poi subito sottoposto a un regime di oppressione, cioè verrà assaltata la sede, verrà chiuso il giornale e uscirà di nuovo nel 1917 e sarà proprio quel giornale a determinare, diciamo, tutto il lavoro di organizzazione delle donne durante la rivoluzione. Cioè sarà proprio lo strumento non solo di propaganda attiva, ma proprio organizzativo che le donne si erano date per portare avanti per dare il loro contributo alla rivoluzione. Uscirà anche un giornale, diciamo, rivolto alla donna contadina, diciamo specularmente a quello dedicato all'operaia. Quindi, come ha detto Franco, l'8 marzo, appunto, 23 febbraio, fu anche l'inizio di quello che è il processo che portò poi alla rivoluzione di ottobre. Furono proprio le donne a cominciare questo processo. Quindi, il presupposto è, come del resto dicevano anche disse anche il movimento marxista precedente, la rivoluzione senza le donne non si può fare. Non solo. Prima dei marxisti, un altro importante socialista, benché su posizioni ovviamente ancora utopiche, però in questo fu comunque, diciamo, gli fu comunque riconosciuto da Engels di aver avuto un'intuizione più che giusta, che era Fourier, disse che il grado di emancipazione di una società si può capire dal grado di emancipazione delle donne. Ovviamente la Russia di allora, nonostante fosse stato poi preso il potere a ottobre, non era un paese all'avanguardia, nemmeno sviluppato. Ci troviamo in una situazione per cui c'erano delle città con, diciamo, una fase di industrializzazione grazie all'arrivo del capitale, diciamo, estero, e un vasto territorio ancora soggetto a un regime semifeudale, possiamo definirlo. E i problemi erano tanti. Come risolvere la questione femminile in una situazione del genere? Le operaie si erano spese per la rivoluzione, le donne si erano spese per la rivoluzione, si sono spese anche successivamente per difendere la rivoluzione nella guerra civile, hanno, diciamo, ricoperto ruoli dei più svariati, con una generosità incredibile, un coraggio incredibile, ma non era comunque risolta la questione della partecipazione politica, era ancora molto debole il movimento delle donne, quindi era necessario, implementare il lavoro tra le donne. Quindi i presupposti sono questi: era stato preso il potere e instaurata la dittatura del proletariato, ma ovviamente va da sé che la presa del potere è l'inizio, è il presupposto e non è un punto di arrivo per chi appunto compie una rivoluzione. Oltretutto teniamo in considerazione che non avevano esperienze, diciamo, di governo, diciamo, di questo tipo abbastanza lungo da cui potersi ispirare e da indagare da un punto di vista storico per poter fare delle riflessioni, a differenza nostra che oggi appunto possiamo beneficiare di questa esperienza storica e capire cosa è andato male e perché. Quindi era tutto da fare, era una società da costruire. Gli stessi comunisti, in primis Lenin, sapevano che per poter attuare effettivamente un programma transitorio, un programma di transizione verso il socialismo, ci sarebbero voluti decenni, proprio per le condizioni di arretratezza della Russia, in primis anche tecnologica. Di conseguenza va da sé che, ancora di più per le donne, la rivoluzione non poteva che essere il punto di partenza e non il punto di arrivo, questo a dimostrazione che la lotta di classe e l'abbattimento del governo borghese non risolve di fatto la situazione della donna. Benché fosse stata sancita l'uguaglianza formale finalmente, questo ovviamente doveva essere poi calato in uguaglianza materiale. Ma per poter realizzare questo era necessario innanzitutto inserire la donna nella produzione e quindi dare alla donna lo spazio in fabbrica, ma soprattutto per poter dare alla donna lo spazio in fabbrica era necessario provvedere a due grandi problemi, quello della maternità e quello della famiglia. I primi provvedimenti che furono presi, ovviamente che riguardavano la specificità della condizione delle donne, sono appunto questi: la tutela della maternità e il ruolo appunto della famiglia. Tant'è che l'anno successivo, nel 1918, fu diciamo adottato il primo codice di famiglia. Il primo codice di famiglia che contiene delle risoluzioni che potremmo tranquillamente considerare all'avanguardia, ma non solo rispetto ai paesi occidentali di allora, persino rispetto ai paesi occidentali di oggi, persino più, diciamo, all'avanguardia a quella che è la situazione dell'Italia oggi. Cosa diceva questo codice di famiglia? Poneva una serie di, appunto, di paletti legislativi, per cui oltre a sancire la parità tra uomo e donna, si occupava, come diceva anche prima il compagno, di parificare i figli e quindi di dare le stesse possibilità ai figli anche nati fuori dal matrimonio. In questo caso però sarebbe stato lo Stato ad occuparsi di questi ragazzi, istituendo appunto delle case d'infanzia per dare ai ragazzi questa istruzione e consentirgli comunque di crescere all'interno della collettività. Altra cosa importantissima fu l'istituzione del matrimonio civile, che per quanto fosse un nodo abbastanza dibattuto, perché ovviamente le donne bolscevicche volevano addirittura abolirlo il matrimonio, all'epoca fu necessario mantenere il matrimonio civile per sottrarre le donne dalle grinfie della religione, quindi del matrimonio religioso. Questo dà un po' anche l'idea come queste forme poi di codice, cioè che queste norme inserite nel codice di famiglia fossero già una forma transitoria, per carattere transitorio, che quindi teneva molto in considerazione quelle che erano le caratteristiche reali, cioè di quello che c'era di fatto e con cui bisognava fare i conti. In effetti questo servì. Servì perché i matrimoni civili aumentarono a discapito dei matrimoni religiosi, per quanto ovviamente la questione religiosa in Russia era molto sentita. Oltretutto il riconoscimento della paternità era possibile in caso di figli anche a più di un uomo, anche il diritto a non prendere più il cognome diciamo del marito, ma di tenersi il proprio cognome era stata una conquista che oggi si fa persino fatica, ad esempio, a poter ottenere presso gli uffici comunali, cioè insomma c'è da fare una trafila burocratica incredibile. Ovviamente appunto rimane questo tassello del divieto dell'adozione, ma semplicemente perché era più opportuno che lo Stato si prendesse cura di questi ragazzi, che altrimenti nelle zone rurali sarebbero stati molto probabilmente sfruttati come manodopera nei campi. E ovviamente si cerca di distinguere quello che è il matrimonio dalla famiglia, nel senso che anche le unioni di fatto erano riconosciute. Ovviamente la cosa importante per le donne era poter beneficiare della parità salariale e quindi avere una propria forma di autosostentamento che potesse garantire loro l'emancipazione. Erano poi diffuse purtroppo anche delle pratiche che in alcune zone del mondo esistono ancora oggi e che ovviamente sono state vietate, abolite da grazie appunto ai bolscevichi, che sono appunto il prezzo della sposa, il matrimonio per ratto, cioè forme soprattutto radicate in zone dove vi era una presenza anche di religione musulmana. In zone tra l'altro molto difficili da raggiungere, erano soprattutto i territori orientali e ovviamente i territori rurali. Quindi queste sono le prime conquiste al di là della rivoluzione, a cui poi si aggiungono il diritto all'aborto libero e gratuito e soprattutto il riconoscimento anche delle coppie omosessuali. Quindi diciamo che il livello, il grado di libertà all'interno di questa società era veramente, veramente alto. Ovviamente per gestire tutto questo era necessario dotarsi di una struttura. Le donne avevano già avanzato una proposta nell'aprile del 17, ma non c'era un numero sufficiente, o meglio non c'erano delegate con diritto al voto che potessero portare avanti questa proposta, e quindi la proposta fu ritirata. Ma dopo, diciamo, l'approvazione di questo codice di famiglia, ci fu la possibilità di organizzare un congresso delle donne panrusse, e tra l'altro la partecipazione a questo congresso fu molto più alta delle aspettative. E qui appunto si diciamo, accolsero quelli che erano stati i provvedimenti iniziali. Ci fu un dibattito molto ampio su tantissimi, diciamo, argomenti, che diventò un vero e proprio programma che le donne si dotavano per arrivare a parlare con le altre donne che ancora non erano state raggiunte dalla rivoluzione, e soprattutto iniziano a pensare ad una proiezione che potesse essere anche internazionale, che non rimanesse confinata alla sola Russia. Quindi sotto pressione di queste donne si riuscì a strappare l'istituzione di una commissione di propaganda e agitazione tra le donne lavoratrici. Ovviamente i rapporti di forza iniziano a mutare, no? Quindi diciamo che la partecipazione delle donne cresce, e quindi nel 19 si riesce a trasformare questa commissione in un vero e proprio dipartimento. Dipartimento che, su proposta di Inés Armand, che fu la prima, diciamo, portavoce del dipartimento, si era dotato di una struttura molto simile ai Soviet, che era una struttura per delegate. Vale a dire, ciascun luogo di lavoro doveva eleggere delle proprie delegate, e così in ogni territorio. Queste delegate assumevano diversi compiti politici, gestionali e quant'altro, venivano formate a questo scopo, ma mantenevano questa carica per pochi mesi, 2 o 3 mesi circa, per poi essere sostituite da altre delegate. Questo cosa consentiva alle donne? Di formare il numero più alto possibile di donne e renderle tutte capaci e consapevoli di essere, diciamo, dirigenti. E fu importantissimo, perché insomma un lavoro veramente, veramente duro, ma necessario, perché queste donne poi avevano la responsabilità nei loro territori di riuscire a portare quelle che erano le conquiste e le rivendicazioni che le donne avevano ottenuto nelle città più importanti. In alcune zone addirittura fu proprio lo Genotiel a portare la rivoluzione stessa, nel senso che furono proprio le donne assumere questo ruolo di ariete di sfondamento, scusate se uso questa, diciamo, immagine, perché i bolscevichi non erano riusciti ad arrivare ovunque e incontrarono non poche resistenze. Molte donne furono anche uccise, l'Uzbekistan fu forse una delle zone peggiori da questo punto di vista, nei confronti proprio di torture a danni di queste donne, perché ovviamente sradicare il patriarcato non era affatto semplice. Di questo ne erano consapevoli tanto le donne bolscevichi quanto i loro compagni, in particolare Lenin e soprattutto Trotsky, che dedicò tantissime pagine anche alla questione di questo passaggio alle nuove forme di famiglia, di quanto fosse, diciamo, dura comunque combattere contro una cultura radicata da secoli nella società, e che appunto il lavoro era veramente, delle compagne era veramente impegnativo. Alla fine sono riuscita a creare questo dipartimento, una vera e propria macchina di propaganda, ma ovviamente la peculiarità di questo dipartimento era soprattutto il fatto di essere molto pratico, nel senso che molte delle donne che loro incontravano nelle zone rurali, e non solo, non riuscivano a, diciamo, avvicinarsi alla politica con il classico metodo della propaganda e dello scambio di idee, del confronto e del dibattito. Molte erano infatti analfabete. Quindi si decideva di coinvolgere le donne direttamente in queste, diciamo, opere, diciamo, utili, fatte da donne per altre donne, che sono appunto, che cosa? Tutta quella rete di costruzione di punti nascita, punti maternità, mense pubbliche, quindi dare alle donne un lavoro, ma nello stesso tempo un lavoro per potersi interfacciare da un punto di vista concreto e pratico e affrontare i problemi quotidiani delle donne stesse. Infatti, come dicevo prima, uno dei tasselli della questione era che una volta sancita la parità salariale, una volta inserito da parte dello Genotiel una delegata che controllasse sui luoghi di lavoro, ad esempio, che non ci fossero molestie, che fossero rispettate appunto i turni di lavoro, che non ci fossero abusi sulle donne, che non ci fossero disparità, avevano anche questo ruolo, ovviamente, le donne nelle fabbriche. Iniziarono ad occuparsi della parte più difficile, che era appunto la socializzazione del lavoro, di cura, perché era proprio quel tempo il tempo sottratto alle donne e che andava restituito, non retribuito, restituito per dare alle donne il tempo di partecipare alla vita politica e di partecipare alla costruzione della nuova società. Insomma, c'erano le premesse per poter portare avanti questo progetto, nonostante fosse difficile, fosse abbastanza, soprattutto, ripeto, complicato interfacciarsi con delle zone abbastanza lontane e ancora, appunto, dove era ancora radicato un forte patriarcato e soprattutto anche un forte senso religioso, ma non solo da parte del musulmano, anche da parte dei cristiani, eccetera. Oltre a questi aspetti materiali, ovviamente che riguardano la sfera materiale, poi si inizia, le donne, in particolare la Kollontai, iniziano a sviluppare un interesse particolare verso quello che loro chiamano il bit. I bolscevichi lo chiamavano il bit, e che tra l'altro torna nelle pagine anche delle poesie di Majakovskij, come novi bit, che è un nuovo stile di vita contrapposto al vecchio bit, che era il bit borghese. Non a caso nelle iconografie, o meglio nei fotomontaggi che un artista molto famoso, che è Rodchenko, un artista costruttivista, che diciamo allegò a quel poema molto che Majakovskij dedicò alla sua compagna Lili Brik, c'è proprio un manifesto, un fotomontaggio dove si vede questa contrapposizione tra il nuovo bit e il vecchio bit, no? Il vecchio borghese con il suo stile di vita e il nuovo uomo, l'uomo nuovo della società russa. Il bit cos'era? Era la trivialità della vita quotidiana, che abbracciava non solo la questione del come, ad esempio, democratizzare la famiglia, dividersi, ad esempio, i compiti all'interno della famiglia e ovviamente socializzare il più possibile quelle che erano le incombenze quotidiane, come cucinare, lavare, eccetera, creando lavanderie pubbliche, mense e quant'altro, ma andava a toccare anche delle corde molto molto particolari, perché si occupava di affettività, di rapporti amorosi, di libertà sessuale, di nuova pedagogia. Non a caso in quel momento il fermento culturale era molto alto, perché anche gli artisti, i letterati, erano i pedagogisti, erano, diciamo, inseriti in questo ampio dibattito. Non a caso sarà proprio quello il periodo in cui nascerà una nuova pedagogia, che avrà delle ricadute importantissime e che ancora oggi paradossalmente viene riconosciuta come, anche dall'Occidente, la rivoluzione vera e propria nel campo dell'educazione. Fu non a caso Vygotsky, no? Lo psicologo più importante, molto vicino alla rivoluzione, un ammiratore della rivoluzione, che introdusse queste novità che Krupskaya, ad esempio, tradusse tantissimo nell'ambito della pedagogia e dell'educazione nelle scuole. Ovviamente da noi arriva filtrato, modificato e riadattato ad un contesto capitalista. All'epoca, ovviamente, oltre a dare un apporto teorico molto importante, prefigurava proprio anche tutto un nuovo modo di istruire ed educare i giovani. Quindi pensiamo a questo bit come a uno stravolgimento totale della vita quotidiana. Ovviamente su questo poi si scontravano le compagne e con i compagni, soprattutto perché alcune questioni venivano viste da alcuni compagni come secondarie, no? Come la questione della libera sessualità, perché insomma c'erano urgenze più importanti. In realtà quello che cercavano di far capire le compagne è che purtroppo questi aspetti della vita quotidiana erano gli aspetti che affliggevano maggiormente le donne, perché erano gli aspetti che le riguardavano e a cui erano esposte quotidianamente. questo era, diciamo, stato veramente un movimento che ha saputo risvegliare, diciamo, quell'energia, liberare quell'energia vitale che le donne hanno messo a disposizione della società. E il loro motto era, oltretutto, faccio da sola. Cioè, quella aveva rappresentato quel periodo storico per loro, un periodo dove hanno saputo autodeterminarsi. Non ci sono stati altre a scegliere al loro posto, sono state loro a portare avanti le loro rivendicazioni. E per questo loro avevano voluto uno strumento, certo, che portasse avanti il programma generale, ma che fosse un organismo speciale che si potesse occupare di questioni specifiche. Ovviamente non era tutto rose e fiori, la crescita, la nascita e la crescita dello genotiere hanno sempre incontrato resistenze esterne e interne, esterne, come già detto, culturali. Non a caso, sotto la spinta e dell'arretratezza culturale e anche di come stava andando la NEP, insomma, che non aveva avuto gli esiti sperati e soprattutto aveva provocato un'incontrollata crescita di diciamo, ragazzi che erano rimasti orfani, si erano dati alla criminalità nei quartieri. Poi c'era tutto il problema della nascita di queste nuove, appunto, classi piccolo borghesi, dei culacchi, dei Nepmen. Per fronteggiare questo problema, anche il secondo codice di famiglia del 26 fa dei passi indietro, piccoli passi indietro, ma c'è una pressione molto forte da questo punto di vista che veniva dall'esterno. E questo Trotsky lo riconosce e lo dice apertamente. Volevo leggere questo passaggio che mi interessava molto, secondo me è molto importante. In sostanza, pagina 50, cosa afferma? Ogni struttura sociale, incluso una struttura socialista, può trovarsi di fronte al fenomeno per cui le possibilità materiali per un dato miglioramento e modifica della vita siano presenti, ma si incontrino anche la sciatteria, la pigrizia di pensiero, le tradizioni servili e la stupidità conservatrice, sotto forma di collegamento al passato, sotto forma di assenza di iniziativa e di coraggio nella distruzione delle vecchie forme di vita. Il compito del nostro partito e delle organizzazioni sociali da esso dirette è quello di fare pressione sui costumi, sulle abitudini quotidiane e sulla psicologia e impedire che le condizioni della vita quotidiana non tengano il passo delle possibilità socio-economiche. La vita quotidiana è paurosamente conservatrice, incomparabilmente più della tecnologia. Quindi le modifiche sovrastrutturali, per dirla in parole povere, erano molto più lente rispetto a quelle strutturali. Era molto più difficile conquistare quelle sovrastrutturali. Quindi questi piccoli passi indietro ovviamente iniziano a dare diciamo il via a tutta un'opera sistematica di liquidazione dello Genotel da parte ovviamente di Stalin e della sua cricca. Uno dei motivi era innanzitutto che la paura che le donne si saldassero all'opposizione di sinistra guidata da Trotsky. Questa era sicuramente uno dei motivi principali. L'altro motivo, e questo però si vedrà poi con le soluzioni adottate successivamente, era, dopo aver considerata conclusa la fase della NEP, avviare i piani quinquennali. E ovviamente la donna doveva tornare a fare cosa? Ad essere un centro multiservizi, a occuparsi della forza lavoro e anche in senso biologico della forza lavoro. Ovviamente Stalin falleva su che cosa? Falleva su queste resistenze, falleva sulle resistenze sindacali e sulle resistenze all'interno del partito. Le donne nei sindacati non avevano vissuto una grande accoglienza, ma questo è stato un dato costante. Forse l'ambito del sindacato è stato l'unico ambito che ha sempre dato filo da torcere alle donne bolscevichiche. Perché? Perché ovviamente gli uomini vedevano le donne come concorrenti e non come alleate di classe. Loro, per evitare che i loro salari fossero abbassati, la soluzione non era lottare insieme alle donne per ottenere la parità salariale, questo prima ovviamente della rivoluzione, ma era tenere le donne a casa e non farle entrare sui luoghi di lavoro, proprio perché potevano rappresentare un esercito di riserva da usare contro di loro e causare così la compressione salariale. Mentre le donne, dal canto loro, sono sempre state generose e solidali negli scioperi, hanno sempre mostrato una grande solidarietà con gli scioperi invece riguardanti i settori prettamente più maschili. Infatti è proprio dai sindacati che si inizia a togliere la possibilità di avere delegate e ispettrici di fabbrica. Le donne vengono segregate, quindi solo determinate mansioni e solo determinati settori, erano principalmente impiegate nell'ambito industriale, solo nell'industria tessile e nell'industria chimica. Ovviamente questo voleva dirle, ricacciarle, diciamo, in una situazione anche pericolosa, quindi tornare a subire molestie sul posto di lavoro, tornare a subire, diciamo, maltrattamenti e anche, essere trattate diversamente rispetto ai colleghi uomini, e queste le resistenze, appunto, sindacali. Le resistenze interne: non tutti i compagni avevano capito, a differenza di Lenin e di Trotsky, che il lavoro delle donne era fondamentale. E a questo proposito volevo leggere, appunto, un altro passaggio interessante che viene da un testo di Zetkin nel suo confronto con il compagno Lenin. Il lavoro di agitazione e propaganda tra le donne, la diffusione dello spirito rivoluzionario tra di loro, vengono considerati come questioni occasionali, come faccende che riguardano unicamente le compagne. Soltanto alle compagne si rivolgono i rimproveri se il lavoro in questa direzione non procede più speditamente ed energicamente. Ciò è male, assai male. È separatismo bello e buono, è femminismo a rebours, come dicono i francesi, femminismo alla rovescia. Cosa c'è alla base di questo atteggiamento sbagliato delle nostre sezioni nazionali? In ultima analisi, non si tratta altro che di una sottovalutazione della donna e del suo lavoro. Proprio così. Disgraziatamente si può ancora dire di molti compagni: gratta un comunista e troverai un filisteo. Evidentemente dovete grattare il punto sensibile, la loro concezione della donna. Può esserci prova più riprovevole della calma coscienza degli uomini di fronte al fatto che le donne si consumano nel lavoro umiliante, monotono della casa, sciupano, sperperano energie e tempo, acquistano una mentalità meschina e ristretta, perdono ogni sensibilità, ogni volontà? Naturalmente non alludo alle donne della borghesia che scaricano sulla servitù la responsabilità di tutto, il lavoro della casa, compreso l'allevamento dei bambini. Mi riferisco alla schiacciante maggioranza delle donne, alle mogli dei lavoratori e a quelle che passano le giornate in un'officina. Pochissimi uomini, anche tra i proletari, si rendono conto della fatica e della pena che potrebbero risparmiare alla donna se dessero una mano al lavoro della donna. Ma no, ciò è contrario ai diritti e alla dignità dell'uomo. Essi vogliono pace e comodità. La vita domestica di una donna costituisce un sacrificio quotidiano, un fatto di mille non nulla. Il nostro lavoro di comunisti tra le donne, il nostro lavoro politico, comporta una buona dose di lavoro educativo tra gli uomini. Dobbiamo sradicarla del tutto, la vecchia idea del padrone, nel partito e tra le masse. È un nostro compito politico, non meno importante del compito urgente e necessario, di creare un nucleo direttivo di uomini e donne, ben preparati teoricamente e praticamente, per svolgere tra le donne un'attività di partito. Le donne del partito hanno incontrato delle resistenze, appunto. In particolare la cricca stalinista accusava queste donne di dedicarsi a fantasticherie piccolo borghesi. Le accusavano, appunto, di femminismo borghese. Ovviamente col passare del tempo le accuse arrivarono ad essere apertamente di trotskismo, perché questo, ripeto, era una minaccia per il potere di Stalin. Fu proprio proprio a partire da quelle modifiche sul codice di famiglia, no, che, e su alcune di queste tematiche, che lo stalinismo farà leva per eliminare gradualmente e liquidare questo dipartimento. Le unioni di fatto non venivano più riconosciute e veniva riconosciuto solo matrimonio civile. Quindi tornava centrale il ruolo, la coincidenza, il ruolo quindi tra famiglia e matrimonio. Lo Stato non era stato in grado di gestire appieno la questione degli orfani, dei bambini. E mentre Kollontai proponeva di istituire una tassa per poter potenziare il lavoro dello Stato in questo senso, si decise invece di scaricare sulle famiglie singole la responsabilità, come ovviamente riconoscendo un solo ruolo, un solo padre ai figli, quindi una sola paternità, e quindi cercando di fare leva sulla responsabilità stessa degli uomini e delle donne nella procreazione. Questo ovviamente offre il là a che cosa? A tutta una serie di appunto modifiche che verranno inserite. In particolare la liquidazione della genottiera inizia con un atteggiamento, se vogliamo, lusinghiero da parte della burocrazia stalinista, che aveva detto: benissimo, il vostro lavoro è stato compiuto, siete state bravissime, adesso potete chiudere il dipartimento. Il succo del discorso era questo, no? Secondo loro ormai la questione delle donne era talmente progredita e si era creata veramente una rete capillare di servizi assistenziali, per cui le donne avevano assolto il loro compito, potevano rientrare tranquillamente nei ranghi del partito, e a queste donne veniva più che altro proposto di fare carriera, in maniera ovviamente molto individualista, all'interno del partito stesso. Le donne iniziano ad essere arruolate come? Contro le altre donne, contro i trotskisti e contro i culacchi. Questi erano i tre, diciamo, tasselli, i tre tarli, diciamo, nella testa di Stalin. E ovviamente come? Ingaggiate contro le altre donne, più che altro proprio per l'arretratezza culturale anche di molte proletarie, anche di molte compagne, che si cerca di far passare il concetto di inutilità di questo dipartimento, che questo dipartimento non servisse più, che avesse oramai assolto il suo compito, che fosse superfluo, che fosse addirittura un doppione della, diciamo, commissione agitazione e propaganda. A cosa serviva questo dipartimento? A niente. E così iniziò questa lenta opera di liquidazione, che poi via via assunse caratteri invece sempre più aggressivi. Il dipartimento, nonostante ovviamente la resistenza delle donne più convinte dell'utilità di questo dipartimento non si verificò nel 1930. Ma la cosa grave è che tutta quella rete di costruzione di servizi, come le cliniche, i punti nascita, le mense, le lavanderie pubbliche, che erano servite come strumento di socializzazione e di cura, vengono ora affidate al lavoro volontario delle donne di partito. Vale a dire che le donne dovevano, diciamo, prestare questo servizio volontario, quindi non più solo all'interno delle mura domestiche, ma addirittura nei confronti delle altre donne. C'è un progressivo ritorno della donna all'interno della sfera familiare. Quindi, segregata nelle fabbriche, aveva fatto dei passi indietro, ferma restando ovviamente la parità salariale, quella non si poteva toccare. Viene ricacciata, diciamo, nell'ambito della cura domestica, quindi viene riportata tra le mura di casa, e infine addirittura arruolata volontariamente per poter addirittura aiutare le altre donne. Gli ultimi colpi ovviamente di coda della controrivoluzione, nella controrivoluzione, che se noi parliamo di rivoluzione nella rivoluzione, è giusto parlare di controrivoluzione nella controrivoluzione, sono la cancellazione definitiva del diritto d'aborto, e questo nel 36, e anche prima nel 34 veniva considerato ancora reato, veniva ripristinato il reato di omosessualità, che era stato invece abolito. Anche le procedure del divorzio ovviamente iniziano ad essere complicate. Simbolicamente la donna, anche nella propaganda russa, soprattutto negli anni 30, è molto vicina alla donna dei regimi, diciamo, totalitari, diciamo, occidentali. La donna sommata alla patria, quindi la grande madre Russia, e la madre, invece, proprio intesa come donna che fa figli. Infatti Stalin aveva a riguardo espresso delle parole molto chiare. L'aborto che distrugge la vita è inammissibile nel nostro paese. La donna sovietica ha gli stessi diritti dell'uomo, ma questo non la esime dal grande nobile dovere che la natura le ha assegnato. Essere madre, dare la vita. Quindi il corpo delle donne prima ritorna ad essere una macchina di riproduzione sociale e poi ritorna ad essere una macchina di riproduzione biologica. Del resto la realizzazione dei piani quinquennali aveva bisogno di un alto apporto di forza lavoro e quindi ovviamente il primo passo da compiere era tornare ad opprimere le donne proletarie. E questo mi fa pensare che appunto, nonostante anche nei paesi che si vogliono progrediti delle democrazie borghesi occidentali, quando si cerca di tornare su queste tematiche, non è possibile allearsi, tra virgolette, con le donne borghesi, ma non perché non sia un diritto condiviso. Formalmente esiste in Italia l'interruzione volontaria di gravidanza, c'è un unico punto: quanto è effettivamente realizzabile per una donna? Se noi pensiamo, faccio questa provocazione, che il numero degli obiettori di coscienza sta aumentando negli ospedali, ci sono delle regioni d'Italia dove sono quasi 100% gli ospedali, ci sono regioni dove i reparti di ostetricia sono stati letteralmente chiusi, rasi al suolo, la Campania è uno di questi, in quelle regioni dove oltretutto sono rimasti pochi punti dove poter praticare l'IVG. E oltretutto in quegli stessi pochi punti annoveriamo la presenza e un alto tasso di obiettori, capite che per una donna abortire è veramente complicato. Donna borghese, nel momento in cui viene sancito un diritto formale, può tranquillamente rivolgersi dove? A una clinica privata. La donna proletaria non può rivolgersi alla clinica privata perché i soldi non ce li ha. Quindi qua ritorna l'attualità del pensiero rivoluzionario, del pensiero marxista. Ottimo l'uguaglianza formale, benissimo, questo è un dato acquisito, ma è l'uguaglianza sostanziale che è necessario portare avanti. È per questo che non può essere la lotta femminista non può essere sganciata dalla lotta di classe. Lo stesso concetto di intersezionalità che oggi sentiamo nei movimenti femministi, che tra l'altro nasce nel mondo accademico, le comuniste non avevano bisogno di definirsi intersezionali perché lo erano già. Loro lo erano già. Per loro la lotta femminista si intrecciava alla lotta di classe e si intrecciava anche alla lotta, ad esempio, sulle minoranze, perché molte donne che erano entrate a far parte dello Genottiel venivano da paesi, diciamo, limitrofi, no? Che erano entrati comunque nelle repubbliche socialiste sovietiche, ma che avevano una loro rappresentanza. Quindi già di fatto l'intersezionalismo esisteva, non c'era bisogno di teorizzarlo. A noi sembra più un vezzo da accademia borghese cercare in maniera anche abbastanza pericolosa di riproporre, diciamo, nuove teorie, quando in realtà i presupposti i presupposti teorici e metodologici per affrontare la questione dell'oppressione di genere, non solo delle donne, pensiamo anche a tutte le soggettività trans e non binarie che si sono affacciate poi negli anni 60, no? Ci sono già questi presupposti. Il pericolo, peraltro, di questi movimenti, per quanto radicali, è che loro teorizzano un'intersezionalità, ma teorizzano come il fatto che la donna in sé sia già una classe, perché partono da un'interpretazione sbagliata sia di Bebel e quindi di Engels, che aveva affermato nella famiglia l'uomo è il padrone e la donna è il proletario, e Bebel riprende questo concetto. Certo. Ma ovviamente si riferiva alla nascita della suddivisione del lavoro che parte all'interno della famiglia e poi si estende alla società fino poi all'avvento del capitalismo, ovviamente, alla suddivisione sociale del lavoro. Quindi per loro le donne lottano contro gli uomini. E questo ovviamente è sbagliato. Da qui si genera il separatismo. Molti dei movimenti odierni fanno del separatismo la loro bandiera, così è stato per il femminismo della differenza, ma ci sono ancora, diciamo, degli epigoni di questo femminismo, no? Tra l'altro, dal mio punto di vista, anche in un certo senso reazionari, basti vedere che fine ha fatto, diciamo, quella famosa femminista che adesso scrive sull'Avvenire, addirittura, che era una delle icone del femminismo della differenza. No, basta guardare La Rocella. Ecco, ah già, La Rocella nasce lì, sì. Sì, cioè. Ovviamente noi cosa stiamo tentando di fare come compagne del Partito Comunista dei Lavoratori? Innanzitutto andare a indagare la storia, dotarci di un bagaglio formativo e teorico forte. E ovviamente ci proponiamo, e questo sappiamo che sarà un lavoro abbastanza duro e abbastanza lungo, di cercare di creare e di riportare, diciamo, all'attenzione l'importanza del femminismo rivoluzionario all'interno dei movimenti. Ovviamente con un lavoro molto duro, da una parte demarcandoci dal femminismo borghese, piccolo borghese, su questioni ovviamente quello piccolo borghese che possiamo dire rappresentato oggi da una di meno, lo dico in maniera molto pacifica ovviamente, certo. Con loro, nei loro confronti noi ci diciamo demarchiamo da un punto di vista programmatico, perché ovviamente ci sono delle soluzioni che noi non condividiamo, il famoso reddito di autodeterminazione che è il parente, diciamo il cugino dello salario domestico, perché poi le radici, diciamo, del reddito di autodeterminazione sono proprio, è la corrente del salario domestico che arriva fino ai giorni nostri con, diciamo, lo sviluppo di tutto il pensiero postmoderno, i nuovi apporti teorici da parte del, diciamo, di questo gruppo di intellettuali come la Federici, come pensiamo in Italia, Fumagalli, a sua moglie, a Cristina Morini, ok? Sono loro bene o male che avevano dato l'impulso a prima al reddito di esistenza e poi Fumagalli nella forma che intendi, l'economista. Sì, della Fumagalli. E quindi il reddito di esistenza è la versione femminista reddito di autodeterminazione. Ovviamente questo per noi non è possibile, non è concepibile, cioè le donne non devono essere pagate perché lavorano tra le mura domestiche, noi non vogliamo che venga riconosciuto il nostro lavoro, noi vogliamo che venga riconosciuto per essere socializzato, questo sì, motivo per cui noi ci batteremo sempre per una sanità e una scuola pubblica, per l'assunzione di personale medico, per l'assunzione di insegnanti, quello è il lavoro di riproduzione sociale, quella è la socializzazione del lavoro di cura di cui noi abbiamo bisogno. Consultori, non per le famiglie ma per le donne, di andarci addirittura a riappropriare di tutte quelle conquiste che nella Russia dopo il 17 sono state possibili e che noi oggi in Italia non riusciamo a concretizzare. Ovviamente, e qui concludo, il nostro lavoro durissimo sarà demarcarci anche dallo stalinismo che non dà alle donne uno spazio ma appiattisce tutto sulla lotta di classe, le donne, a parte qualche denuncia sui femminicidi, la violenza, ma non affrontano la questione materiale, non inquadrano da un punto di vista metodologico e teorico la questione della donna. E ovviamente il nostro movimento dovrà in primis cercare di lottare senza quartiere contro la presenza della Chiesa, diciamo, nelle nostre vite. E spero che il lavoro che stiamo facendo come compagne del Partito Comunista dei Lavoratori possa dare i suoi frutti. Ovviamente io penso che in ogni struttura ci saranno sempre compagni che magari saranno un po' resistenti a queste iniziative, però posso dire che sono fiera del mio partito perché ho compagni che stimano le compagne e il lavoro che fanno, ci danno grande possibilità di portare avanti le nostre battaglie e ci aiutano in questo, nel senso che loro non sono separatisti a rebur come lo erano alcuni, diciamo, nel partito bolscevico, certo. Sono fatti vostri. I nostri sono femministi veri, ecco, mettiamola così. E qui io concludo il mio excursus storico e politico. Grazie. Bravissima. Bravissima. Riprendo il mio ruolo di presidente e chiedo chi vuole dare il suo contributo al dibattito. Forza e coraggio. Io devo dire un paio di cose, ma vorrei che fosse qualcun altro prima di me. Beh, secondo me questa discussione prende maggior forza anche viste le ultime dichiarazioni degli uomini dell'entourage di Putin, anche il classificare il femminismo come un'ideologia estremista e quindi una penalizzazione dei movimenti femministi in Russia, il riflettere su quello che succedeva 100 anni fa da quelle parti dà forza, diciamo, alle motivazioni di questa iniziativa. Aspetta, venga a prenderti. Chiederei anche alla compagna Renina però un paio di domande, sì. Fondamentalmente, se di poter addentrarsi maggiormente sul concetto di intersezionalità e anche diciamo di spiegarmi, sbarra a spiegarci un po' in cosa consiste lo xenofemminismo, perché sono appunto tutta una serie di xenofemminismo. Allora no, l'intersezionalità mi basta perché cioè se vuoi ti dico cos'è il nazifemminismo, il femminismo TERF, questi te li posso spiegare. No, va bene l'intersezionalità. Inizio ad accennarti qualcosa del variegato mondo del femminismo oggi, questo lo posso fare. Sì, sarebbe prezioso anche perché diciamo appunto, cioè purtroppo a volte un approccio al rebur viene involontario fondamentalmente. Vabbè, quindi no, diciamo certo. Ma non è quello ad essere pericoloso, è l'approccio consapevole che è il problema principale. No. Una che aveva capito che era alle 9:30 invece che alle 8:30. Qui Susanna, ciao. Mi conoscete voi? No. Mia moglie? Susanna, che piacere. Ciao Susanna, come stai? Ciao Susanna. Ciao. Però mi ha capito alle 9:30. Davvero, ho capito alle 9:30, che ci posso fare? Allora, meglio tardi che mai. Elena, volevo chiederti questo. Che cos'è l'intersezione? Se c'erano altri settori del partito bolscevico, oltre quello più strettamente staliniano, in opposizione a questa rivoluzione, nella rivoluzione. Cioè, tu hai fatto ovviamente un ampio riferimento agli stalinisti che sfruttarono questa opposizione diciamo alle lotte delle donne in chiave antitroschista, ma si possono delineare altri settori del partito bolscevico che in questo si sono allineati, oppure era solo la parte e più stalinista che era su queste posizioni, ecco, questa più domanda storica di posizioni di questo tipo. Posso dire un'altra cosa, scusatemi. Allora, Elenina ci parlava giustamente e precisamente della risoluzione di Alessio, della figura della Kollontai. Io non posso non pensare anche, compagni, anche diciamo a quanto ci sia stata anche diciamo dal lato, non dico una capitolazione della Kollontai allo stalinismo, ma anche, e questo mi fa un po' orrore a pensarci, anche alla parabola di colui che fu il marito di Alexandra Kollontai, ovvero di Benko, nei fatti diciamo con gli altri uomini dell'apparato staliniano faceva ricorso a quella che era la prostituzione, diciamo, che poi era tornata in voga nell'URSS degli anni 30, ovviamente per gli apparatchik e gli uomini dell'apparato. Questa cosa diciamo ci fa anche riflettere su quanto anche appunto tutta una serie di piaghe vecchie e l'idea del peggiore zarismo siano state poi riprese dal diciamo dallo stalinismo, ma come penso anche ad esempio al fatto che tanti ora reputano un simbolo antifascista il nastro giallo arancione nero, il nastro di San Giorgio recuperato dallo stalinismo, che nei fatti era appunto un simbolo del militarismo zarista fondamentalmente, diciamo quanto appunto lo stalinismo non solo abbia ripreso vecchi costumi e vecchie diciamo la vecchia melma fondamentalmente della società pre-rivoluzionaria, ma anche abbia appunto diciamo questo abbia trasformato anche tutti coloro che capitolavano o che appoggiavano lo stalinismo in uomini ancor peggio di quello che c'era diciamo nella Russia zarista fondamentalmente. Questa involuzione non posso non pensarla fondamentalmente anche da uomo. Alcune cosine, allora. No, ovviamente gli stalinisti erano all'inizio c'era ovviamente anche Zinoviev, la burocrazia stalinista era ovviamente quella che ha portato al processo di liquidazione dello Genottier. Ma in realtà gli atteggiamenti non è che si configurassero come poi fazioni vere e proprie all'interno del partito, cioè c'erano singole personalità, ma lo stesso Sverdlov, per dire, che non è che avesse tanto a genio l'idea di costruire questo, di fare questo dipartimento, no? Poi alla fine concesse questa cosa. Quindi si parla più che altro di atteggiamenti, tra l'altro molto inconsci, molto probabilmente, nel senso che era proprio una questione di culturale, di costume, di crescita politica. Il fatto che non ci fosse una, tra l'altro, una grande preparazione da parte dei dirigenti, di alcuni dirigenti, come denunciava Lenin, questo faceva capire che era un atteggiamento diffuso, ma non è che ci fosse la volontà di costruirsi in fazione proprio contro, diciamo, il lavoro delle donne. Questo lo è diventato dopo, ma per motivi di controllo da parte della burocrazia su quello che era il partito, fondamentalmente. Quindi su questo non credo. Poi magari uscirà che c'erano anche altre fazioni. No, non era ideologica, hai ragione tu, era non mi sembra la burocrazia che... E quindi non, no. Sulla Kollontai, beh, ovvio che lei è stata una delle protagoniste, ma in realtà la prima donna capo del dipartimento dello Genottier fu Armand, Inès Armand, che ebbe un ruolo fondamentale perché fu sua l'idea di pensare alla struttura per delegate dello Genottier. Fu lei a proporre questa cosa. Kollontai più che altro si è dedicata a scrivere anche tanto su altri aspetti, in particolare del BIT. Ma noi non è che intendiamo fare il panegirico della Kollontai, anche perché tra compagni abbiamo appunto dibattuto sulla questione del fatto che non avesse, se non sbaglio, dato asilo politico a Trotsky. No, anzi, ha chiesto che venisse espulso. Esatto. Però su questo, ovviamente l'importanza di questa esperienza non sta semplicemente in capo alle singole. Certo, il fatto di avere delle dirigenti e un'avanguardia di classe preparata era importante. Ovviamente il dipartimento era delle donne, era di milioni di donne, cioè, e quindi voglio dire, è stata un'esperienza che ha riguardato la massa e non le singole. È proprio questo quello che fa la differenza. Le donne che agiscono si auto-organizzano, si autodeterminano e agiscono come collettivo, non come singole personalità. Quindi anche perché le proposte, al di là dei primi decreti che vengono fatti, le proposte poi di discussione su programmi venivano fatti proprio all'interno del dipartimento, quindi erano discussioni collettive. Quindi sì, sono d'accordo con te, ovviamente poi c'è stata questa involuzione e bisogna purtroppo fare i conti anche con questo, restituire la dimensione storica così com'è. Però ripeto, questo non sminuisce comunque il ruolo importantissimo che la Kollontai ha avuto nell'ambito della, diciamo, dello Genottier prima della rivoluzione. Poi ecco, oggi intersezionalità, allora, in sostanza, ma per farla breve, dagli ambienti accademici si è ricominciato a riprendere i discorsi sulla lotta delle donne, no? E di come questa lotta, dopo aver scontato, diciamo appunto, la triste stagione del separatismo, che ha visto scissioni su scissioni su scissioni, tra l'altro poi dovrò recuperare una bellissima poesia di Audre Lorde degli anni 90, che descrive in questa poesia questo continuo separarsi, no? E prima le donne si separano dagli uomini, e poi ci sono le donne lesbiche che si separano dalle altre donne, e via discorrendo, no? Cioè questo proliferare di soggettività che però non riesce a trovare poi una matrice comune. L'intersezionalità nasce dall'esigenza di, come direbbero i movimentisti, unificare le lotte, no? Quindi unire le lotte delle donne alle lotte dei lavoratori, alle lotte ad esempio che riguardano gli immigrati e via discorrendo. Però insomma mi sembra una cosa abbastanza, cioè, ma sulla base di quale programma uniamo le lotte? Cioè, e poi fondamentalmente è questo il punto. Quello che manca all'intersezionalità oggi è un programma sul quale mobilitarsi. e soprattutto non riconoscere una matrice comune che è quella dell'appartenenza di classe. Ok, che viene rimosso dall'intersezionalità. Non è che viene rimosso, il concetto di intersezionalità viaggia su binari molto soggettivi, astratti, non viaggia su binari materialisti. Poi qualcuno potrebbe dirci, ah, ma la Wittig è in realtà una materialista. Però secondo me parte da concetti errati. Lei è una di quelle che teorizza che le donne siano una classe, motivo per cui esiste anche un separatismo, diciamo, nuovo, che è quello di Zappino, certo, ad esempio, no? Di questo intellettuale omosessuale che addirittura prefigura il separatismo queer, cioè il fatto di creare un'organizzazione, diciamo una mobilitazione che riguardi nello specifico, che possa unire le istanze delle donne alle istanze delle persone non binarie, alle istanze delle persone e delle persone omosessuali e quant'altro, e collegato in un certo senso poi alla lotta di classe. Però questo è separatismo, cioè non è una lotta particolare e speciale all'interno della lotta di classe, è una lotta proprio a parte che viaggia di fianco alla lotta di classe, ma non ha, secondo noi, molto senso. No, io volevo dire, scusa, sì, un po', mi sembra, io l'ho inteso, di nuovo insisto su questa cosa, sì, qua. Invece io l'ho visto come una cosa molto più ecumenica, più comprensiva, prima di tutto che mi sembra che sia legato soprattutto al discorso postcoloniale, che significa quindi che vengono da quelli che noi una volta chiamavamo terzo mondo, quindi e il discorso è già del razzismo, quindi etnia, razzismo e via di seguito, quindi voglio dire allarga secondo me. Cioè non restringe e non separa, ma allarga, quindi, e quindi ci mette la discriminazione razzista, la discriminazione che, come dicevi tu, classista, più le altre discriminazioni, quindi anche a livello quasi geografico mondiale, questo discorso, io almeno l'ho inteso in questa maniera, questo discorso della intersezionalità, dico non separa, anzi secondo me, e diventa, cioè, un programma, cioè, molto più articolato, più complesso, e recupera delle cose che, insomma, l'indipendenza dei paesi, di quelli, ripeto, del terzo mondo, quindi sono delle cose che un po' il mondo occidentale, quindi le esigenze delle donne, insomma, sono cose che il mondo occidentale non aveva contemplato prima, no, in un certo senso. Niente, vabbè, era questo. No, che in un certo dire. Senso sì, però lo fa dicendo colleghiamoci tra di noi, non siamo tutti appartenenti comunque alla stessa classe, che è un discorso diverso. Allarga e aiuta a superare quegli steccati che c'erano stati con il femminismo della differenza, meno male. Però non lo fa ripristinando una matrice materiale comune, vale a dire siamo tutti sfruttati e sfruttate. Lo fa dicendo combattiamo insieme contro, diciamo, questo sistema che ci causa delle oppressioni. Però non è, diciamo, secondo me, non c'è consapevolezza, sì, da un punto di vista proprio materialista. No, ma mi sembra che c'era quella che è morta da qualche anno, come si chiama, Bella Hook, no, mi sembra, oppure, come si chiama, Angela Davis, insomma, e quindi non è solo poi quelle che dicevo io, il terzo mondo e via di seguito, ma anche tutta la componente afroamericana che deve fare i conti con qualche cosa in più, cioè dico, un'altra discriminazione, no? A parte quella di essere donna, quella di essere afroamericana, no? Cioè insomma di essere nera. E quindi voglio dire, ecco perché io un po', mi sembra un po' ingenerosa la tua. No. Ma in realtà io dicendo che le comuniste erano già intersezionali, in realtà volevo proprio dire questo, cioè nel senso mi sembra un voler, siccome è un termine che nasce nel mondo accademico, mi sembra un voler inventare qualcosa di nuovo che in realtà già esiste. Cioè questo semplicemente voglio dire, nel senso che non c'è bisogno di inventarsi un nuovo termine o di coniare dei neologismi per portare avanti, diciamo, qualcosa che in realtà a livello teorico e pratico soprattutto esisteva. Esisteva già con le donne bolscevichi e che tra l'altro appunto non, la loro teoria non era scaturita dal pensiero della Fraser appunto o dalle penne di una donna che rispetto alle altre, come direbbero le femministe intersezionali, gode del privilegio. Quindi gli rubo anche questa espressione e la faccio mia. Quindi non penso che il femminismo intersezionale sia da buttare, assolutamente, motivo per cui è doveroso interfacciarsi con loro. Dico solo che ovviamente vorrei che il femminismo intersezionale riuscisse a ripristinare questa comune appartenenza di classe, proprio su soggetti sfruttati, perché appunto le donne nere, ma non solo, pensiamo alle donne immigrate che arrivano qui, oltre ad essere svantaggiate da un punto di vista lavorativo e quindi non avere gli stessi diritti, magari appartenere a famiglie con appunto un'impostazione magari e delle regole che le vedono insomma impegnate per molte ore al giorno in nella cura dei figli, della casa, e anche delle regole magari anche rigide da parte dei mariti, non tutte ovviamente, ipotizzo ce ne siano alcune. Beh, ovvio che la loro condizione rispetto alla mia intreccia diversi aspetti dell'oppressione, certo, non solo quella di genere, c'è l'oppressione appunto di classe, c'è l'oppressione che diciamo quella prettamente etnica. E questo è ovvio, ma di questo vi ripeto, le donne marxiste ne tenevano già conto, non avevano bisogno di definirsi tra virgolette intersezionali. Adesso ovviamente, secondo me, per cercare di traghettare di nuovo, riportare un po' in auge, se vogliamo, quella parte del femminismo dell'uguaglianza che si era perso, mettiamola così, e per cercare una fusione, diciamo un superamento dialettico nel confronto scontro tra femminismo dell'uguaglianza e femminismo della differenza, si è creato questo, diciamo, femminismo intersezionale, che va bene, sicuramente meglio del separatismo, diciamo, della differenza, però dal nostro punto di vista va fatto un passo in più, cercare di sentirsi come appartenenti a una classe di sfruttati, poi con diversi livelli di sfruttamento, diverse specificità, ma tutti sfruttati, perché se da parte delle femministe rivoluzionarie diventa diciamo un'esigenza capire che lo Stato borghese va abbattuto, perché qualsiasi programma transitorio noi si proponga, e non solo per la questione specifica femminile, ma anche per altre questioni, non mi aspetto che un governo borghese attui queste misure. Ci vuole per forza un governo dei lavoratori e delle lavoratrici che possa farsi carico degli interessi di quella classe. Stessa cosa, appunto, io è vero, esiste formalmente, mi riattacco al discorso di prima, il diritto all'interruzione di gravidanza. Non ci sono però talvolta le condizioni materiali per poterlo fare. Come faccio a garantire che ci siano le condizioni materiali? Ovvio che se io devo ripristinare i reparti di ostetricia, superare la legge attuale e decidere che gli obiettori di coscienza non devono più essere negli ospedali, non mi basta un movimento che faccia pressione su un governo borghese, soprattutto in una fase come questa dove insomma diciamo che il movimento è anche abbastanza, cioè ha fatto qualche passo indietro, mettiamola così, rispetto alla partecipazione di qualche anno fa, a livello di numeri intendo. È ovvio che per noi si pone direttamente la questione del potere, e io non so quanto il femminismo intersezionale si ponga anche e mi piacerebbe saperlo, nel senso, mi piacerebbe anche dialogare per capire quanto si ponga effettivamente la questione del potere e quindi dell'instaurazione di un governo dei lavoratori che possa portare avanti le istanze, anche le istanze femministe, perché io non mi aspetto che una Elish Line, tantomeno una Meloni, possano concretizzare le mie istanze, non ci credo, e nemmeno facendo pressione, no, io pretendo che si faccia la rivoluzione. Ma dico qualche cosa io un po' a margine, ma per riportare un concetto importante. Noi non abbiamo niente a che vedere con lo stalinismo. Lo stalinismo non è un comunismo cattivo, è il contrario dello stalinismo. Noi dobbiamo mettere in testa ai compagni della Guardia che lo stalinismo, come diceva Trotsky, se non ci fosse la proprietà pubblica dei mezzi di produzione, il regime stalinista sarebbe un regime fascista. Quindi non c'è, l'ha scritto Trotsky, e oggi ancora vediamo troppi, magari è una questione che impari, ma stiamo parlando tutti di Ucraina, ma anche del ruolo della Cina. E qualche compagno, in buonissima fede, che si crede un trotskista, mio amico argentino, dice no, perché la Cina, non puoi dire che ancora c'è il capitalismo, perché lì resta il ruolo del Partito Comunista Cinese. Scusa, cioè, sì, ci sono i capitalisti, perché ormai ce ne sono migliaia di capitalisti, non lo puoi negare, però finché c'è il ruolo del partito, ma come c'è il ruolo del partito? Cioè, siccome c'è un partito che senza proprietà pubblica e beni di produzione sarebbe tipo fascista o totalitario, come è? Provate ad andare in Cina a fare una manifestazione contro la guerra come negli anni 60 negli Stati Uniti. 40 anni nelle miniere come si chiama, il Xinjiang, insieme ai poveri uiguri che sono oppressi nazionalmente. E quindi questo è importante riconoscerlo. E in questo senso c'è l'aspetto che non è ideologico, la controrivoluzione staliniana sulla questione della famiglia, dei diritti delle donne, il divorzio, la frase che avete sentito, io me la segno, se vado a un dibattito su questo in una televisione dove ogni tanto vado lì, Simona cito questo, dice, ma che dico, dice, è Pillon, pensate che sia Pillon, se non è la famiglia bisogna, quella che citato, la donna deve fare figli perché deve essere uguale ma al suo ruolo naturale, quindi noi l'aborto è una cosa ignobile, bla bla bla, no, è Joseph Stalin, esattamente quella, Susanna era arrivata in ritardo, no, però sul libretto c'è riportata evidentemente è questa cosa, quindi noi quando parliamo della frase di Mussolini, appunto, sì, di Mussolini, beh, o di Pillon oggi, ecco, diciamo, o della Roccella, ma nemmeno, forse nemmeno la Roccella arriverebbe a dire tale cosa. E quindi c'è proprio questo, che era la restaurazione del ruolo della famiglia e l'abolizione dei diritti, perché un regime totalitario come il regime non può permettere libertà, non può permettere avanzamenti, ma su tutti i terreni. E c'è una mancata conoscenza in Italia, tutto il mondo in parte, ma in Italia per la tradizione che io ho detto, e non mi vuole, ci fosse un compagno di sinistra anticapitalista, direi per gli errori del povero Livio Maitan, che non capì nel 68 che bisognava costruire un'organizzazione indipendente e se no lasciavi gli spazi ai maoisti e quindi alla loro ideologia. Certo, non è colpa sua soggettivamente, però quando uno lascia a differenza che in Francia, dove queste cose, senza essere, non è che tutto è chiaro, ma perché c'è una tradizione in cui, cioè, il linguaggio, il modo di pensare del marxismo rivoluzionario è ben sviluppato, anche poi da Mélenchon a tutti sono nati là nel trotskismo, quindi insomma c'è questa cosa qui. Qui in Italia c'è questa incomprensione del carattere proprio di, non di deviazione ideologica, ma di controrivoluzione che in parte è sociale, non è sociale nella misura, o meglio, si conclude socialmente con l'89, 90, 91, 95, poi con le privatizzazioni in Russia, o con, nel mezzo ancora peggiore, del mantenere l'involucro stalinista, quindi particolarmente repressivo e totalitario, in un quadro capitalista, sia pure capitalismo di Stato controllato come in Cina. Ma è appunto una controrivoluzione sociale che prende forme diverse, su cui tanto c'è, adesso non torniamo a riflettere, ma questo è perché io quando lessi da ragazzo per la prima volta La rivoluzione tradita, mi colpì lo spazio che Trotsky dedicava alla questione della famiglia, cioè, sì. E perché magari io ti ho abituato a dire, ma sì, importante, però sono d'accordo, però forse era, e invece Trotsky dedicava, perché era un aspetto fondamentale, come su mille altre questioni. Allora, lì per parlare un po', anche buttare a noi ridere, ma proprio, anzi, tutt'altro, ma per cogliere un aspetto. Non so chi di voi è riuscito a vedere quelle pubblicate che da Massari ultimamente, le memorie di Cornelli, quel comunista italiano che dopo aver ucciso un fascista in un, cioè per difendersi, ma ad ogni modo, nel 21, nell'epoca della guerra civile in realtà in Italia, scappò in Russia, arrivò nell'estate del 22 a Mosca per vivere là, poi fu internato e sopravvissuto ai Gulag, poi è ritornato in Italia negli anni 70 e poi è morto. E lui racconta che la sorpresa, lui e degli altri compagni, quando arrivarono a Mosca d'estate, e vanno, cioè fa caldo, vanno sulla Mosca, e trovano tutti uomini e donne nudi. E loro sono sconvolti perché immaginate tutti nudi. E la gente le chiedono, dice, ma come? Eh sì, perché c'è il problema, ci abbiamo caldo, facciamo il bagno e lo facciamo il bagno nudi. Dice, forse ce l'hanno anche pochi per la povertà, c'era anche difficoltà a trovare costumi da bagno. Ma in ogni modo risolvevano così. E se si vedono delle foto anche pubblicate, mi ricordo in un vecchio testo scritto da, credo un anarchico, ma pubblicato, appuntate quando c'erano i fascicoli, appuntate quando ero bambino, ragazzino, a 10 anni, storia rivoluzione russa. Ci sono le foto delle impiegate nel 22, 23, 24, che nell'intervallo di pranzo, se non c'erano voglia di ingrassare e di mangiare, andavano al parco e si stendevano, l'estate di bello, credo che sarebbe stato difficile, nude a prendere il sole, nude totali. E dice, questo fa ancora più meravigliato quando addirittura trovò un gruppo di persone per strada, andare nudi, spero che avessero almeno le ciabatte, perché se no rimando nudi con dei cartelloncini, dice abbasso la morale borghese e il nudismo. Cioè, immaginatevi 10 anni dopo, 15 anni dopo, se non rifucilavano e mandavano a tempo indeterminato nei gulag. Quindi il senso della rivoluzione, o la questione dell'attenzione su un altro terreno, che ovviamente è diverso, ma è importante anche quello della natura. Su questo Bagarola ha scritto cose eccezionali che non so se tu hai letto, bisognerebbe riprendere il testo e pubblicare in un altro opuscolo il testo di Bagarola sui il leninismo, cioè la protezione della natura nel momento in cui uno poteva dire ma chi se ne frega, ci abbiamo la guerra civile, invece lui fece istituire Lenin in persona, in particolare, non perché Lenin fosse onnipotente, sapete che Lenin finiva anche in minoranza nei comitati centrali, fino nel 21, quindi non era discussione vera, ma lui ci badava particolarmente, e poi era il capo del primo ministro, quindi doveva occuparsi, istituire una associazione, un dipartimento per la protezione della natura, per salvare pur nella guerra civile le condizioni degli alberi, dei boschi, delle foreste, per evitare una distruzione della natura, non considerando una cosa secondaria neppure in un momento di guerra civile. Quindi lo spazio, con tutte le problematiche, la guerra civile è sempre una guerra terribile, commetti sempre delle esagerazioni, a volte fai come all'inizio della rivoluzione, andare liberi i generali che poi diventavano generali sulla parola d'onore che non avrebbero preso le armi contro la Repubblica dei Soviet. Uno dei principali cospiratori addirittura contro Kerensky. Naturalmente appena arrivò nella zona del Don, costruì l'Armata Bianca, poi morì brevemente in combattimento, però così, dice, no, aveva giurato sulla sua parola. Poi magari in reazione addirittura, arrivederci, ciao. Andando in termini contrari. Ma è certo che c'è una magnificenza, diciamo, di questa rivoluzione. Naturalmente noi dobbiamo porci il problema perché poi c'è stato il fallimento, ma noi sappiamo la mancata estensione della rivoluzione, l'incomprensione di alcuni meccanismi, come dice Trocchi, per la rivoluzione tradita, dice, se non sbaglio lì o in ogni modo un testo scritto lì, dice la burocrazia nasce intorno al fiasco divino, nel senso di dire che cioè, alla fine cioè, abbiamo dato la rivoluzione, abbiamo rischiato anni di galera, mo abbiamo il vino del Val Nero, Stalin tra l'altro appena divenne segretario organizzativo triplicò gli stipendi dei funzionari e passò le vacanze dei funzionari, istituite per la prima volta le vacanze per i lavoratori in Russia dalla rivoluzione, le portò da tre settimane, due mesi e mezzo per la burocrazia più... Le ferie. Più, le ferie, sì. Infatti tanti andavano più verso agosto-settembre, non so perché, poi qualcuno le dividevano, ma anche Stalin prendeva, se la dava a Sochi dai primi d'agosto a fine settembre normalmente lui era sul, ma non era mica solo lui. Quindi proprio questa cosa, diciamo, della materialità della degenerazione così controversa con i primi anni, quando uno semplicemente aveva detto, un iscritto, cioè, ma credo che a Cremlino mangino bene, e gli si è scritto questo, benissimo, facciamo una commissione d'inchiesta. E videro che anche lì mangiavano di schifo. Certo, mentre alcuni nella guerra civile andavano a procurarsene in campagna, è chiaro che lì non poteva dire a mezzogiorno non me ne vado a vedere se trovo delle patate e un pollo in campagna, come poteva fare anche un operaio la domenica alle 5 di sera. Quindi quello dovevano avercelo. Però ecco, diciamo, questi elementi veramente di una civiltà superiore che non ha riscontri in nessun'altra rivoluzione. Perché quando diciamo rivoluzione deformate o degenerate nelle altre rivoluzioni, certo c'è principalmente un elemento politico. Persino a Cuba, che cioè i soviet non li hanno mai fatti. E qualcuno che nel movimento trotskista si innamorò subitamente dopo tanti anni di trotskismo ortodosso di Cuba, dice, cioè, tanto dice, i compagni che obiettano, perché c'erano quelli che obiettavano, dice perché non ci sono, è una questione secondaria che tra l'altro sarà probabilmente risolta a brevissimo termine. Era il 1960, quando sono passati 60 anni e i soviet non li hanno visti, ma ci sono i referendum al 90%, salvo quello sui diritti omosessuali, perché questo è stato importante recentemente, anche perché è stato probabilmente il primo voto libero e ha avuto il 71% dei voti, il che significa che malgrado tutto una parte probabilmente maggioritaria della popolazione, differenza in altri paesi, è legata alla rivoluzione, perché è vero che era una questione sugli omosessuali e che una parte avrà votato per quei dove diritti. Franco? Due mesi fa, quando è stato? Cuba. E quindi questa cosa qui. Quindi credo che questo sia per noi importante sempre da ricordare, cercare di far capire così la rottura netta che purtroppo non capirono tanti. Un'ultima cosa, volevo dire, sulla colonna, a me mi è sempre un po' intrigata negativamente, non è che ci ho pensato ogni giorno nei miei 50 anni, da quando avevo 17 anni, appena, anzi stavo per compiere, vabbè, diciamo 17 anni, oggi ne ho 71, nei miei 54 anni di militanza trotskista non è che ho pensato ogni giorno, ma perché la colonna? Però ricordo che ricordo che c'era un problema, la colonna aveva un figlio in Russia. E in un processo che un funzionario russo, Kravchenko, che non fu né, per usare né un Reis, cioè né uno che andava a sinistra, né un Butenko, cioè uno che andava a destra, divenne un socialdemocratico, insomma, ci vorrebbe il socialismo ma senza dittatura, e siccome i trotskisti contano poco, mi appoggio ai socialdemocratici, non a Sara, alla socialdemocrazia in generale. Nel processo che fece, perché era stato calunniato da una rivista culturale del Partito Comunista Francese, da Luminare, della... Anche questo qui era andato in esilio. Sì, lui era funzionario a Washington durante la guerra e a un certo punto nel 1944 chiede asilo politico, va agli uffici, non so, del governo americano e chiede asilo politico, e malgrado fossero arrivati di guerra, glielo danno, e quindi lui era stato calunniato, e lui fa il processo, vince il processo, la cosa deve pagare i soldi che poi lui dedica all'associazione contro i campi di concentramento che raggruppava, per dire, gente come Rousset, che era un ex militante in realtà trotskista, che era stato nei campi di concentramento stalinisti, era sopravvissuto a Auschwitz, perché fortunatamente per lui non era ebreo, solo tra quelli con, sapete, avevano i triangoli diversi, il triangolo rosso politico, e quindi parecchi di quelli si sono salvati, gli ebrei molti meno, si sono salvati che avevano il triangolo, cioè se poi avevi tutte e due eri finito. Lui non era ebreo, quindi se è uno di quelli che si è salvato, però ha fatto contro i campi di concentramento sia in Occidente sia i gulag, no? E lui dice in questo processo, forse esagerando, che 40 persone hanno pagato con la vita la sua defezione. Perché Russo, tutti i suoi colleghi del dipartimento, eccetera, sono finiti. A parte lui non aveva figli, per questo è potuto, forse la moglie era con lui. Ma a parte dei parenti anche, cioè peggio che la mafia, cioè, è peggio che da questo punto di vista che il regime nazista, a parte gli ebrei, perché anche quelli del complotto del 20 luglio le mogli le misero in prigione, sì, la storia famosa del castello in cui erano rifugiati. E lei dice, perché tu sapevi, evidentemente tu sapevi e l'hai coperto. E adesso non so se saranno stati 40, se è esagerato o meno, ma certamente alcuni non hanno fatto quella scelta perché sapevano che altri avrebbero pagato. Quindi io non lo so con la Kollontai. La Kollontai, ho letto che lei subito dopo la guerra, credo, ricevette un suo antico compagno e anche amante, era un comunista francese che poi ruppe con lo stalinismo e divenne libertario, ecco, però non credo, forse per un periodo anche troschista. Lo ricevette segretamente in Svezia, dove era ambasciatrice, e andava a presentare, diceva, sai, l'umanità ha i suoi limiti, quindi lo stalinismo forse era inevitabile, però praticamente dice che lei non era che una convinta stalinista. Naturalmente uno può dire ci vuole più coraggio, però il coraggio a volte è anche non solo per se stesso di perdere privilegi eccetera eccetera, ma anche di rischiare, pensate alla famiglia di Trotsky, ma alla famiglia di tanti che normalmente se finivi, se finivi fucilato quando il povero Kamenev, che era un uomo dignitoso, però disse come io insegnerò ai miei, ho insegnato ai miei figli ad amare, spero che impari ad amare Stalin, non è perché aveva insegnato, perché sperava di salvarli, invece non ha salvato, siccome non erano ragazzini, invece non fanno trofeo, li hanno direttamente fucilati, perché figli del kamenevista trotskista era pericoloso che la moglie nel gulag. Quindi può darsi che anche la Kollontai abbia fatto questa scelta per pensare non tanto a se stessi ma a altri. Quindi, ma siccome... anche ad esempio, Franco, scusami se ti interrompo, penso alla vicenda di Kalinin. Kalinin, sì, Kalinin, eccetera, del gulag, cioè... certo, ma anche Molotov, anche Molotov, ma Molotov piangeva per la moglie del Molotov, è una persona più complessa, perché appunto perché quando ci fu l'aggressione russa, adesso stiamo un po' smarcando su altri terreni, ma no, perché il compagno ha posto la cosa per dire, no, io l'ho detto in funzione del capire, perché nel dibattito lui aveva sollevato il problema della Kollontai. Ah, ho capito. Perché tu sei arrivato in ritardo pensando che era le 9:30, che vuoi? Lui ha detto, dice, però certo che la figura della Kollontai, che lei ha citato come dopo Ines Arman, dimenticata figura, o Evgenia Bosch, che vabbè, non tanto da questo fine, ma tante altre dirigenti bolsceviche importanti, che Evgenia Bosch era una trotskista che si suicidò quando Stalin vinse nel partito, temendo quello che poi sarebbe successo, ed era in realtà la capa dei bolscevichi in Ucraina. E Ines Arman fu la prima, come lei ha ricordato, ma la Kollontai, siccome lui l'ha posto perché diceva certo la Kollontai è una bella figura per le battaglie femminile, però peccato che lei sia stata poi con Stalin e non abbia anzi addirittura chiesto che Trotsky venisse espulso dalla Norvegia eccetera eccetera. E io che ogni tanto l'ho pensato, poi proprio leggendo quelle parole in un libro su quel processo, il processo Kravchenko, che è un libro in francese ad ogni modo, perché fece storia in Francia all'epoca del 49, una cosa così, E lui dice, lì testimoniando, facendo un commento, cioè, per la mia defezione, per quanto ne so, 40 persone hanno pagato con la vita. Metti pure che abbia raddoppiato. Ma perché se tu sei il direttore del dipartimento, era un direttore di un dipartimento per il commercio, il tuo vice vuoi che non lo sapesse? È chiaro che era anche lui colpevole. E via dicendo. E quindi la Kollontai, diamole il beneficio di inventario di non essere stata veramente a un certo punto complice di Stalin, perché probabilmente l'ha fatto non per se, o vigliacca, ma per salvare suo figlio e probabilmente i suoi amici, che in qualche caso ci è riuscito, in qualche caso no, perché anche Di Benko alla fine l'ha fucilato, nonostante fosse stato membro del collegio che ha condannato Kaczynski, e poi però c'è uno che si è sopravvissuto, che dice, con tempo ha detto, condannando loro ho segnato la mia condanna a morte. E però sai, in quel momento loro è difficile, gli eroi è difficile, l'eroe e l'eroe, non diciamo eroi, o diciamo eroine, non lo so quello che sia giusto o meno, non si trovano tutti i giorni, soprattutto quando sono persone che devono anche mettere in questione non solo loro stessi, ma tutta una filiera, perché il terrore scientifico dello stalinismo era che se il capo è colpevole, quelli intorno a lui, a meno che non siano quelli che hanno denunciato il capo, evidentemente sapevano, e in ogni modo, anche se non sapevano, è meglio evitare che ci sia qualcuno che non sapeva, che sapeva e non l'ha denunciato. Per cui tutti fuori. Ed è sempre stato così nello stalinismo. Era, sì, hai ragione, non c'entra molto, ma per dire che anche la Kollontai la possiamo ricordare, anche io mi sono modo, ma se uno dovesse domani fare una manifestazione, spera quando saremo 10-20 volte più forti, una manifestazione grande, un dibattito come questo grande, però anche con le foto, eccetera, ce la possiamo mettere alla Kollontai? Io dico di sì, ce la possiamo mettere, perché non è una che diamo il beneficio. Ad ogni modo, per concludere, per quanto mi riguarda, le compagne hanno fatto un lavoro eccezionale. Questo libretto, e lo dico, cioè, che non è veramente una cosa. Bisogna cercare, poi il problema è che non abbiamo funzionari. È scritto tempo. Anche bene. Manda, eh? È scritto anche bene. Appunto, lei l'ha letto oggi, l'ha detto, che è una giornalista severa. Sì, ma non solo politicamente, ma come scrittura. Sì, sì. Bisognerebbe mandare alle varie giornaliste delle TV e vedere se qualcuno dice, però cavolo, questa qui è interessante. Il problema è che poi bisogna che poi tu riesca, ci vada, perché l'altra compagna che potrebbe andare a dividermi in due ha problemi per lavoro di non essere conosciuta pubblicamente, e quindi toccherebbe a te girarti tutte ma finché a Milano, ma io direi da settembre in poi firmo l'ingresso e il ruolo e poi guarda, vado dove vuoi. Ah, va bene, questo è vero. Da settembre in poi, vabbè, quest'estate lo mandiamo a un po' di giornalisti di cose e diciamo, scusate, ma una cosa così, poi magari sono ignoranti o non interessa, perché no, però è veramente un testo coi fiocchi. Dobbiamo cercare di diffonderlo, perché il giornale, la rivista si è abituato, il libretto è meno normale. Ancora il primo che abbiamo visto. Sì, il primo è interessante, tutti e due se vogliamo, ma questo è più bello. Il primo era sì, l'analisi, l'aggiornamento di Engels, bello, interessante, anche perché dimostra come si può essere ortodossi senza essere dogmatici, giusto? In questo caso ortodosso senza essere dogmatiche. Quindi questo è molto buono, ma questo è un qualcosa di più, anche perché dimostra cos'è la rivoluzione che noi vediamo. Poi io sono vecchio, non la vedrò, voi cercate di vederla e in ogni modo fate il massimo possibile per quello, però quello che noi vogliamo e che i bolscevichi volevano non ha niente a che fare col progressismo, siamo antiamericani, per cui chissà magari in Iran se dietro non c'è la CIA, perché sono stati inizi, sono arrivati a dire puzza sotto il naso rispetto al movimento in Iran, e ci sono anche i monarchi, e vabbè, ci sono anche i monarchi, perché qualcuno ricorda che allora poteva andare senza velo, sua mamma, sua nonna o quello che sia. I centri liberali italiani di Cavour, certo. C'erano contro la Chiesa. Certo, e tra l'altro difatti anche questa cosa, se mi permetto, questo un po' c'entra nell'abolizione del matrimonio, nella costituzione del matrimonio civile, perché ho trovato anche qualche cretino che ha scritto in qualche articolo, cioè lei ne parlava, però lui si è sposato in Chiesa. Ma perché in Russia non potevi sposarti se non dal prete, non c'era il matrimonio civile, non è che potevi scegliere, tu se volevi essere sposato dovevi andare o dal prete o dal pastore protestante o dal pope, pastore, prete cattolico, rabbino, imam o prete buddista, non so come si chiama, sì, come si chiama. Altrimenti non ti potevi sposare, che è quello Cavour, giustamente, tu hai citato Cavour. Il matrimonio civile in Italia per primo lo pose Cavour nel 1800, negli anni 50 in Piemonte, perché anche allora prima ti potevi sposare dal prete, non potevi andare invece in nemmeno tutte e due come in qualche paese poi venuto che devi fare tutte e due, no, dovevi andare per forza dal prete, sennò il matrimonio non esisteva. Ed è buffo vedere che la Chiesa, visto che hai parlato anche del ruolo della Chiesa, nel libro che ho letto, almeno come si dice sempre, io sono vecchio ma non c'ero all'epoca, nel 1856 mi pare, fece più casino su questa storia del matrimonio che sull'esproprio, perché Cavour come cavolo finanziò la guerra del 59? Espropriando una parte dei beni, che oggi sei bolscevico, ultra bolscevico. Cavour dice che hanno troppi soldi, la Chiesa troppi beni per finanziare la guerra del 59, espropriò la guerra. La Chiesa dice, vabbè, su quello possiamo trovare un compromesso, non quanto chiedi tu, ma non toccateci il matrimonio, perché è chiaro, perché lì... siccome controllavano le anime, alla fine il patrimonio si ricostruiva, perché controllando le anime questo lasciava... Anche perché Franco, legge Siccardi gli aveva dato comunque una bella bottarella alla Chiesa. Ma è quello che sto parlando, credo. E quindi per loro era più importante garantirsi l'avvenire, erano più furbi di certi capitalisti d'avventura, no? Che dice, no, ma adesso potete tornare, però lasciateci quello che poi sarà la base che lo ricostruiamo due volte, l'animus, e quindi quello lì poi ci lascia, poi i matrimoni li faccio pagare a seconda del reddito, proporzionale c'era un po' nella Chiesa, no? E via dicendo, quindi ricostruisco. Quindi appunto, se leggerete che Lenin si è sposato in Chiesa... Era il famoso bit di riferimento. Sì, sì. I soldi si recuperano, ma... questo potere che abbiamo sulla gente, certo, che deve sposare in Chiesa, Chiesa, certo, ma fino a recentemente in Grecia, adesso non so chi lo conosca, ma il povero pastorino, mi permetto di dirlo, leader di lotta comunista, quello dice, è andato in Grecia, si è sposato lì dal popolo. Ma in Grecia, credo fino agli anni 80, questo dirigente della comunista è tornato negli anni 70, credo, dopo la caduta della giunta militare, ma ancora in quegli anni, in Grecia non c'era il matrimonio civile, dovevi andare dal pope o da un altro prete di un'altra... Ma perché si è sposato in Grecia? No, perché sua moglie era greca. Ah, ok. Ma perché... ma no, in realtà c'era... Ma perché... andato in Grecia, ma perché ha sposato una greca molto ricca. Ah, ok. Ma anche sua madre era greca. E già lui era ricco di famiglia, sia sua madre, sia anche quindi... da questo punto di vista ha finanziato abbondantemente, non ci abbiamo paralleli noi tra i nostri dirigenti, nemmeno io che sto, grazie alla pensione della giornalista, abbastanza bene, però non sono ai livelli di un pastorino. Quindi sposandosi in Grecia, perché lui di madre greca, la sposa greca, ha dovuto fare il matrimonio greco col pop. Scusate, mi sono un po' dilungato, ma tanto è giusto essere anche un po' conviviali. Il punto che rimane, Otto, mi dispiace che una compagna, l'unica compagna che è venuta questa sera, purtroppo, abbiamo scelto forse una sera sbagliata, ma non ha sentito la tua introduzione, ma al di là della bellezza dell'introduzione che riflette la bellezza di questo testo che bisogna assolutamente cercare di vendere, perché ripeto, è un po' difficile, c'è il giornale, perché vuoi anche, ti ho già comprato il giornale, ti ho già comprato la rivista, ma anche il libretto, bisogna cercare, bisogna trovare magari degli ambienti che però a primo naso, tipo non una di meno, se ti vedono i bolscevichi, la questione femminile. No, ma alcune magari lo comprano. Però appunto cercare lì di trovare quei settori, soprattutto giovanili, perché non bisogna confondere nemmeno lì, esatto, il gruppo dirigente, perché una ragazza oggi va da non una di meno e segue le dirigenti di non una di meno, dalla Camusso a, non so se è Elettra degli anni di non una di meno, sì, anche lei, no, Elettra, scusa, ah, Eliana Como voleva dire, sì. Mezzo no, e mezzo, è critica, ma insomma, mezzo e mezzo, diciamo, perché trova quelli lì, no, quindi no, non, è che, non è che sono... antimarxiste o amarxiste naturali, come non esistono i trotskisti naturali o i marxisti naturali, non esistono nemmeno gli antimarxisti naturali, cioè è il problema appunto di saper, e quindi questo è veramente una cosa, io credo che sia una delle cose, non dispiace a chi ci ha lasciato, qualche amico nostro, guardo Achille che abbiamo visto ieri, il portaborse lì della Zarina che ci ha lasciato, su alcuni terreni il PCL avanza nelle capacità di costruire teoria e intervento, speriamo che questo possa trasformarsi anche in adesione, perché senza di questo ovviamente la teoria non basta, però veramente è una cosa, io quando l'ho letto, se una ipercritica come la giornalista Barzolla, permettetemi, dice che è scritto bene, guardate, sicuramente è scritto molto bene. Qualcuno vuole aggiungere ancora qualcosa? Tu vuoi... No, no, io sono... Va bene, compagni, però su questo dobbiamo magari ritornare a pensare... magari in un'altra occasione, trovando altri ambienti, magari contattandoli, quelli per esempio nell'ambiente dei compagni e compagne iraniane o della cosa. Magari coinvolgere anche un'altra compagna del partito. Certo, vabbè, però qui chi convolgiamo? Possiamo portarci la Marzolla che dice, da giornalista dico che è scritto ottimamente, però la ciccia deve essere... E in realtà l'obiettivo in realtà è anche questo, cioè, perché ovviamente questo per noi, cioè, è formativo, no? Fare questi lavori è in primis formativo per noi, no? Poi certo, speriamo che lo sia anche per le compagne, ma poi speriamo che siano le compagne ad andare a formare altre compagne, che a loro volta vanno a formare altre compagne. Questo è l'obiettivo. Però in 3 mesi non ci riusciamo, magari invece in autunno, fatto questa cosa qua, possiamo magari fare pensare di rifare un momento in forma non ripetitiva esatta, ma in cui si può tornare sulla questione, non so, magari intorno al 20, cos'è, il 28 novembre, la manifestazioni... 25 novembre, magari contro la violenza, magari non quel giorno, ma magari qualche giorno prima... o qualche giorno dopo, magari dando magari un volantino lì che dice tra 2 giorni o tra una settimana ritorniamo su questi argomenti e via dicendo. Certo, volentieri. Benissimo, grazie cari compagni.